Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sono Eccoci qua, buonasera a tutti. Stasera abbiamo una piccola maratona, vero Agostino? Una piccola maratona che comincia alle 21, cioè adesso, esattamente fra 21 e 01, e termina alle 24. Come prima protagonista di questa maratona avremo una band abruzzese, si chiama Cressida, ha fatto un disco molto bello, un disco nuovo, Marmalade Sky, e li abbiamo però solo in collegamento telefonico, però è già molto positivo e molto importante. Buonasera Cressida, ci sentite? Buonasera a tutti. Come state? Bene? Solo io, Danilo sta arrivando, tutto bene, grazie. Tutto bene, importante. Ciao Fabio. Salve. Fabio, ci senti? Sì, ci sento, a te ti sento. Ciao Fabio, mi senti? Sì, ti sento. Okay. Bene. Buonasera anche da Agostino Spolaore che vi tiene compagnia, siamo a Maurizio con questi 4-5, quanti amici sono questi qua al telefono questa sera? Quanti siete lì al telefono? Sì, allora, per il momento sono solo io e in arrivo Danilo alla batteria, siamo in due. Bene. Il gruppo è formato da tre comunque. Esattamente. Benissimo. Esattamente. Questo, Fabio, è il terzo disco vostro, il disco della maturità assoluta secondo i critici e secondo me anche praticamente. Ah, ti ringrazio, sì, abbiamo raccolto un po' le idee, quindi sì, abbiamo fatto una spremuta del succo, quindi sì, si può dire il disco della maturità. Sì, perché dicono tutti, si dice sempre, quando si arriva al terzo disco, il disco della maturità, ed è effettivamente vero, maturità vuol dire, cioè avete raccolto le impressioni positive dei primi due dischi, avete sviluppate un sound leggermente diverso, Fabio, è vero? Sì, abbiamo, come dicevi poc'anzi, abbiamo raccolto idee, quindi abbiamo fatto un succo, siamo andati più sul punto dei brani, più che sulla lunghezza questa volta, quindi siamo andati più sulla psichedelia, quella là un po' beat, se vogliamo dire. Sì, però io ricordo che all'inizio di carriera suonavate dal vivo le cover di Jimi Hendrix Experience dei Cream, quindi sì. Jimi Hendrix gira sempre nel vostro DNA. E gira sempre nel nostro DNA, anche perché comunque è anche il mio punto di riferimento oltre altri due. Comunque sì, nel DNA c'è sempre un Hendrix, sì. È bello che sia così, secondo me. Cosa dici, Fabio? È uno stile sanguigno, noi siamo molto sanguigni, siamo in trio, quindi anche dal vivo suoniamo... Come suonate dal vivo? Tu hai detto sanguigno, ma come dal vivo elaborate i pezzi, li allargate, fate delle piccole jam session, così? Esatto, come dicevi tu anche i Cream, quindi abbiamo da una base di un brano di 2 minuti e mezzo, comunque riusciamo a sviluppare delle trame, delle jam session, sì esattamente, comunque il live è molto improvvisato, quindi praticamente ascoltando l'album e ascoltando il live sono due cose differenti, quindi il live è uno spettacolo ulteriore al disco. È un disco psichedelico, poi avete una produzione di un personaggio di grande valore. Sì, Amaury Cambuzza è stato fantastico con noi, comunque ci ha seguito, è stata una produzione che ho voluto io stesso perché avevo bisogno in questo album di lui. L'abbiamo conosciuto a Roma, quindi abbiamo sviluppato un rapporto anche di amicizia, se vogliamo dire. E abbiamo lavorato sin da subito, gli ho portato delle track grezze e abbiamo lavorato su quelle fino al punto che comunque poi lui è venuto in studio con noi e ha partecipato comunque anche nelle registrazioni, sia come backing vocals che strumentista. Quindi è proprio partecipato all'interno della band, non solo come produttore, ma proprio come coprotagonista. Esattamente, perché è rimasto entusiasta del progetto, quindi ci credeva anche lui, e l'ho visto molto preso, a parte il fatto che sia una persona squisita, l'ho visto molto preso da questo lavoro. Bene, poi ricordiamo che ha rifatto, cioè rimesso una nuova formazione di Faust è un gruppo storico dell'indie, esatto. Possiamo dire indie, adesso si chiama indie, ma una volta si chiamava musica alternativa. Esatto, forse uno dei primi gruppi alternativi associati al crowd rock, comunque esatto. alla pro. Sì, esattamente, concordo. E noi per iniziare ad aprire la finestra di questo Marmalade Sky abbiamo scelto il pezzo numero 1, la prima traccia, che io definisco un pezzo molto accattivante, ben fatto, con molta melodia. Fabio, cosa dici? C'era bisogno di far capire la passa dell'album dal singolo. Il singolo, vuoi o non vuoi, per fartelo passare in radio, nelle TV, c'è bisogno di un minutaggio ridotto, quindi abbiamo fatto un beat psichedelico di nome Love. Esattamente, ma un minitar ridotto sì, però che non danneggia la qualità del pezzo, secondo me. No, perché comunque si mantiene sempre un certo stile, una certa coerenza col passato, quindi parliamo sempre di vintage, di generi e sound a noi cari. E certo, lo sentiamo allora, ok? Ok. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Siamo sempre in diretta qui alle 21.09 di questo giovedì 2 giugno 2011 con Agostino in questo momento, ma c'è anche Maurizio ovviamente. Stiamo cercando di capire cosa hanno fatto i Clepsydra grazie all'aiuto, se si può dire così, della voce e la chitarra di Fabio Di Gianluca. Ci sei, Fabio? Sì, ci sono. Eccoti qua, eccoti qua. Fabio, permettimi una cosa prima di continuare la chiacchierata. Io volevo salutare e ringraziare ovviamente Vannuccio. Zanella. Il nostro gancio praticamente. Il nostro gancio. Assolutamente. Ecco, Vannuccio, se sei all'ascolto, un abbraccio, un saluto da tutta Blu Radio Veneto. E salutiamo anche Nino anche e il nostro direttore artistico che è Alberto Prisco. Ok, allora ripieghiamo la formazione, tu chiaramente chitarra e voce, poi Danilo Ricci alla batteria e Matteo Di Bernardo voce e basso. Un trio perfetto, perché il rock è in trio, Fabio. Il rock non è necessariamente... Non necessariamente, però non necessariamente. Qualche volta, spesso e volentieri, parte dal trio. Parte dal trio, esattamente. Poi il trio con due voci, quindi con dei controcanti, è sempre un'ottima cosa, secondo me. E il prezzo iniziale... Sì, poteva essere anche un singolo, però la qualità era sempre ben messa, ben alta, ricordava certe cose, ma ricordava il vostro amore viscerale per il rock, questo è importante. Un rock melodico che prende, che è accattivante, ma è sempre un rock. Sì. È un rock che ha matrici comunque, diciamo che un album dei Clepsydra alla fine è vario, cioè quindi da un pezzo a un altro c'è una matrice principale, ma... Diciamo che comunque varia anche in base ai gusti personali di chi compone i brani alla fine. Certo, ricordiamo che l'album precedente si chiamava Another Sunsets, sì. Ha avuto un riscontro notevolissimo, vi ha catapultato, vi ha fatto conoscere. E in Other Sunsets è stato un album, sì, l'album che forse ci ha fatto conoscere. Avevo intenzione di fare un concept album e sapevo solamente che lo potevo fare con la GT Music e con la MT Record. Quindi abbiamo trovato un accordo, vabbè, siamo noi e Vannuccio e Nino Destra siamo legati comunque sempre da un profondo rispetto e stima, cioè quindi lavoriamo comunque in simbiosi sui prodotti. E abbiamo fatto questo progetto che è andato bene alla fine, sì. Sì, sì, ha allargato notevolmente il campo d'azione, vi ha fatto conoscere, ha sviluppato certe idee, certe tematiche che poi avete messo in questo album, chiaramente rivedute e corrette con una nuova direzione. Sì. Allora, non farò mai più un album come in Other Sunsets, semplicemente perché è un tipo di appeal di album che comunque è fuori tempo, oggi risulterebbe un po' ostico l'ascolto dell'ascoltatore medio, però secondo me valeva la pena farlo. Ho fatto questo altro album, abbiamo fatto comunque quest'altro tipo di lavoro, sì. Soprattutto per non ripetere un qualcosa di, secondo me, non unico, che comunque è fine a se stesso. Certo, ho capito. Cioè, con Marmalade Sky c'è stata un'evoluzione, cioè avete continuato un vostro percorso, però è stata un'evoluzione, abbiamo suonato in maniera diversa dal vivo, abbiamo registrato in maniera diversa, chiaramente come per tutti abbiamo acquistato maturità in studio, quindi siamo riusciti a fare delle cose diverse da altre. Certo, il live è fondamentale, è essenziale per un gruppo come il vostro. Noi prima di incidere le prime demo, i primi... Nella storia dove nasce, Fabio? L'inizio della storia dove nasce? L'inizio della storia nasce in un garage dove avevo dei brani e, con Danilo, che è un amico comunque di vecchia data, ho detto: guarda, ti va di farli? Sì, mi ha fatto, però prima dobbiamo fare un po' di live. Abbiamo fatto anni di live e abbiamo testato questi pezzi prima di incidere, dopo anni di live. Cioè noi nel 2007, quando abbiamo fatto il primo lavoro, con Lee Rob Stonehenge, certo, avevamo già alle spalle un centinaio di concerti, cioè quindi eravamo già pronti per produrre qualcosa di nostro, capisci? Certo, ma questa è una cosa molto positiva secondo me, Fabio. Adesso non si usa più fare centinaia di concerti e buttarsi un disco. Si fa il disco subito e basta. Io sono sempre della scuola dei Pink Floyd. Bisogna provare, continuare a provare. Facevano gli album dal vivo gli anni prima, cioè provavano in tournée l'album che dovevano fare, che dovevano far uscire l'anno dopo. Io sono di quella scuola là. Certo, mi piace comunque lavorare sotto questo. E poi una cosa positiva, io sono un fan dei King Crimson e avete citato i King Crimson in un vostro disco praticamente, in Lost in the Universe c'è una citazione di Epitaph. Ah, che bello, che bello. È uno tra i miei brani preferiti comunque dei King Crimson. Sì, mi sembrava quei due brani, Lost in Universe e Epitaph, alla fine a me personalmente davano la stessa sensazione, la sensazione di epitaffio, quindi perso nell'universo, quindi qualcosa, uno stato umano in cui dici: ah, adesso veramente sono tranquillo. Ho capito. Benissimo, ritornando al nuovo album, un album interessante, ha tante variazioni, ci sono dei pezzi blues, assolutamente blues. Sì. Un blues elettrico, finché vogliamo, ma la matrice è sempre blues. Un blues elettrico, e noi forse siamo l'unico gruppo che va a ritroso. Siamo partiti dalla metà degli anni 70 per scendere, capito, in giù. Non lo so, perché è un fatto forse viscerale, di stati d'animo magari, sicuramente sarà... Non riesco a spiegarlo, però penso che sia comunque un fatto viscerale. Sì, un album che si ascolta ben volentieri. Certo, gli amanti di un certo genere lo ascoltano ancora meglio, però anche quelli che non sono proprio ferrati nel genere anni 70 lo possono sentire senza nessun problema, perché allarga gli orizzonti, secondo me, non li allarga deprime. Gli orizzonti, comunque arriva a più pubblico. Esattamente. Noi abbiamo scelto la traccia numero 4, ce la vuoi spiegare un momentino? Allora, la traccia numero 4, Sunset in LA. Esatto. Sunset in LA è un brano malinconico, perché parla di un tizio che ha lasciato completamente il mondo dove viveva per trasferirsi a Los Angeles, la città degli angeli, e parla come se fosse partito da solo alla fine, come se avesse lasciato qualcosa da qualche parte, diciamo, questa malinconia di qualcuno che ha lasciato qualcosa di caro in un altro posto. E musicalmente è molto interessante, lo sentiamo, ok? Sì. Waiting for my last summer, having been with all the stars. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Vi ricordo che questo è sempre Blu Radio Veneto, state ascoltando la presentazione del disco dei Clepsidra. Vi ricordo alcune cose delle nostre emittenti, i nostri numeri telefonici, l'ora in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda i vostri sms è il 346 23 20 033. Il nostro sito www.bluradioveneto.it. Vi ricordo anche le pagine su Facebook, una è semplicemente Blu Radio Veneto, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave a cura di Alberto Prisco, che cura soprattutto la parte rock della nostra emittente. Maurizio. Fabio, ci sei? Sì, ci sono. Fabio, sai perché ho scelto questo pezzo? Non so se sei d'accordo, io te lo sparo. Perché mi ricordava certe ballate di Bob Seger. In senso positivo del termine, assolutamente positivo. Perché? Sì, concordo. E allora questo andamento malinconico mi ricordava quello. Il pezzo è molto bello, secondo me. Può essere un nuovo singolo potenziale, ma non perché sia un singolo, perché è un pezzo che è accattivante, che prende immediatamente ed è inciso ed è cantato con una certa predisposizione. Fabio, ti ringrazio. Quel pezzo, sì, comunque in quel pezzo si dice tutto, comunque in breve termine, alla fine un'evoluzione, una fine, comunque un brano standard che però, come dicevi tu, c'ha quel qualche di accattivante. Esattamente, è ben costruito, standard finché vuoi, ma non è un standard negativo, è ben costruito, ben confezionato. Ed è qualche momento di stasi ci esiste in questo album pieno di psichedelia, questi andamenti onirici musicalmente parlando. Però questo momento di stasi, di malinconia, di pezzo abbastanza quieto, malinconico ma quieto, non vivace, ma un non vivace che non dà fastidio, secondo me. È una quarta track ad hoc per la scaletta, per la tracklist. Come sempre le scalette sono fatte ad hoc, Fabio, quindi la quarta track doveva essere così. L'album l'ha fatta Maurì Cambuzà, quindi... Inizialmente ero contrario a quel tipo di scheletro, però poi ho capito il perché. Chiaramente lui ne sa più di me, quindi è giusto seguire. Lui è in pasta da un sacco di anni su ste robe. Sì. Ulan Bator è un gruppo molto particolare e riesce ad avere delle cose difficili da ascoltare, ma molto semplici anche da ascoltare. Sì, è vero. Sono in completa evoluzione. Un gruppo di nicchia che è rimasto di nicchia e comunque continua sempre a sfornare ottimi lavori. La produzione è totale del leader di Ulan Bator, praticamente. No, la produzione è una coproduzione. Ah, una coproduzione. Con me. Ho capito. Che tipo di coproduzione? Io ho portato il lavoro al 50%, lui è venuto in studio e ha proseguito da quel 50%, ho portato io il lavoro, gli arrangiamenti, ha proseguito lui. Ma abbiamo lavorato veramente in simultaneo. Ah, bellissimo questo. Poi tu mi hai detto che Amorì è stato subito, si è subito innamorato del tuo modo di costruire i pezzi, chiaramente. È vero, sì, no, guarda, è fantastico. È stato veramente bello lavorare a quest'ultimo lavoro. Bene, una cosa molto positiva. E Danilo, ci sei? C'è Danilo, è arrivato? Allora, Danilo sta arrivando. Sta arrivando. Che ha funzione fondamentale nella batteria? La ritmica è una funzione fondamentale. Allora, sì, Danilo ha avuto un suono molto più secco in quest'ultimo album, voluto comunque perché il tiro di pezzi, se vogliamo, è diverso, quindi nei brani più corti c'è bisogno comunque già di un attacco dall'inizio, quindi abbiamo fatto questo lavoro poi settoriale anche sulla batteria. Certo, poi leggendo fra le note, che ho spulciato un po' di cose, questo vostro amore per i Pink, in un pezzo come Along, un pezzo vecchio, non dell'album nuovo, Along the Can Nothing More, c'è un omaggio viscerale a Syd Barrett. Syd Barrett probabilmente sarà sempre negli album di Clepsidra, perché l'amore viscerale comunque è mio. Cam è il famoso fiume che attraversa Cambridge, sì, praticamente. Sì, che ho attraversato di persona, ho camminato a Cambridge, sì, sono un fan viscerale che ha visitato luoghi, comunque che è stato poi pure nei posti dove scrivo alla fine. Certo, ma perché questo amore viscerale per i Pink targati Syd Barrett in genere, Fabio? Io considero Syd Barrett un genio, perché tante volte continuo ancora adesso a pensare come è riuscito a fare un incipit tipo Astronomy Domine. Riusciva ad eseguire, ad adoperare delle sonorità particolari, magari accordi che neanche lui conosceva, certo, che davano dei sensi atroci di inquietudine, dei sensi di se vogliamo di sballo incredibili. Sono pezzi tipo Scream della Scream mai pubblicati, che poi sono usciti in bootleg, certo, assurdità alla fine. E ricordiamo che il primo singolo dei Pink Floyd, See Emily Play, l'ha scritto lui, chiaramente. Sì, quindi era un singolo, ma è un singolo talmente diverso da tutti i singoli che si potevano recepire, ha avuto un grande successo, però era particolarissimo, una scrittura di 3 minuti scarsi ma di grande interesse musicale. Particolarissimo, sono stati seguiti inizialmente da vari produttori geniali comunque per l'epoca, che hanno valorizzato tante cose, anche i messaggi comunque di Piper at the Gates of Dawn, che poi non c'è Simili Play in quell'album. Sì, esatto, sì. Innovativi, veramente innovativi per l'epoca, secondo me. Certamente. Ritornando a questo disco, incisione, quando ci avete messo a fare l'album? Un anno, mi pare. Sì, abbiamo fatto una lunga preproduzione di 5-6 mesi, quindi abbiamo registrato i brani anche 3 volte, abbiamo scartato molto materiale appunto per fare un album senza riempitivi, quindi è stata una lavorazione di un anno alla fine, sì. Esattamente, quindi avete scelto appositamente i pezzi, li avete collocati nella maniera giusta, assolutamente voluti quei pezzi là, praticamente. Assolutamente voluti, ce n'erano il doppio, conta che l'abbiamo scartati 10, quindi c'è stato un lavoro minuzioso sul fatto, proprio l'intenzione di fare un album, parlando sempre di Clepsidra, perfetto, nel senso un album che ascolti, riascolti, riascolti, inutile mettere più brani. Certo, quello doveva essere, così è stato. Sì. E quei pezzi che avete scartato sono rimasti nel cassetto, li utilizzerete, li fate sentire dal vivo oppure rimangono sempre nel cassetto? Allora, i pezzi che abbiamo scartato li abbiamo fatti chiaramente, come dicevo prima, dal vivo, quindi li abbiamo portati al vivo gli anni passati. E noi abbiamo molti pezzi nel cassetto, magari faremo un album di B-side un giorno. Ah, bello. Sì, conserviamo tutte le tracce, i master su hard disk separati, no, abbiamo tutto organizzato. Bene, io adesso ho scelto la traccia numero 6, perché l'ho scelta? Perché io amo la California, questa è una traccia molto importante, adesso ne parli un secondo, Fabio. Allora, peyote, quindi, come detto, sì, esattamente. Ci trasferiamo un attimo in California. Il brano parla di un uomo che va dallo sciamano. Lo sciamano è quello lì che tramite peyote comunque va in trance e, secondo le leggende, le tradizioni, sarebbe in grado di comunque predire il futuro. Sì. Questo, c'è una conversazione tra quest'uomo e con lo sciamano e alla fine tante cose che voleva sapere l'uomo non cioè magari era meglio che non gliele diceva lo sciamano. Certo. Però alla fine il succo è quello. Musicalmente è importante, è un pezzo che californiano, sì, californiano fino al midollo, però riveduto e corretto da voi al 100%. Sì. Abbiamo appunto per dargli quello style californiano abbiamo messo un partito per finire. È un brano che si sviluppa in più parti, però sembrerebbe che dura tantissimo, in realtà è un brano di 4 minuti e mezzo, quindi scorre tutto molto lentamente, perché immaginiamoci il deserto, il caldo, questo tipo di ambiente, questo tipo di aria ferma, quindi il brano scorre lentamente. Esatto, è una cosa giusta. La California, quante canzoni ha fatto nascere, quanti motivi, quanti vezzi musicali, quanti viaggi, quanti tour musicali ha fatto nascere la California? Quanti viaggi, tantissimi. Tantissimi viaggi, lo sentiamo adesso, sì. Ok? Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua, poteva continuare all'infinito Fabio questo pezzo secondo me. Fabio, ci sei? Sì, pronto, sì, sì. Ci sono. Perfetto, poteva continuare all'infinito questo pezzo e non dava nessun fastidio. Vedo che abbiamo le stesse idee. Ah, assolutamente, abbiamo le stesse idee. Poi, lo sciamano si sentiva nel pezzo, questo dialogo più o meno presente musicalmente parlando, e via, si andava. E ricordava, lo sai benissimo, una volta i Grateful Dead facevano i concerti da 7 ore. 6-7 sì. Ore di completa follia sonora, ma è cosa incredibile. Erano altri tempi, c'erano anche altri tipi di aiuti. Sì, d'accordo, c'erano altri tipi di aiuti, ma se parliamo solo di musica si andava oltre. E secondo me Amaury Cambuzza ci ha dato di qualcosa anche del suo in questo pezzo, non so cosa dici. Sì, a parte nei controcanti, anche comunque nei piccoli arrangiamenti, ha curato anche i piccoli arrangiamenti, cose fondamentali poi per un pezzo di questo tipo. Certo, e poi l'accordo con te e Ulaanbaatar hanno questo andamento in alcuni momenti, questa lunga jam, possiamo chiamarla jam session, questo lungo suono che cavalca, che va avanti, che va avanti. Secondo me. Sì, è un trasporto alla fine, perché poi tu ti immergi in qualcosa, cioè c'è una, come dicevi poc'anzi, c'è un colloquio tra le due persone, poi si va nel viaggio più completo quando parte la chitarra, il famoso trip, Fabio, i famosi trip musicali. Sì. Ricordiamo una cosa fondamentale: fra qualche giorno siete qua a Padova, vicino a Cittadella, per fare un concerto molto importante. È una bella occasione, anche questa comunque curata da Vannuccio Zanella. Certo, sempre da Vannuccio. È un onore suonare in una cornice stupenda, comunque il Campo della Marsa lì a Cittadella. Il sabato 4 giugno, ragazzi. Sabato 4 giugno, se non mi sbaglio, alle 21. Alle 21, esatto, siete qua. Sì, siamo lì in belli carichi. Poi un bel concerto all'aperto, ci sta bene. Il primo concerto all'aperto che facciamo con la bella stagione, una bella opportunità, insomma. Chiaro, è una cosa molto importante. Poi, come tu giustamente hai detto, è un teatro, Campo della Marsa, meraviglioso, proprio sì, la sì. Meraviglia anche ambientale che da questo. Speriamo di fare comunque una buona colonna sonora alla cornice. Ah, la cornice io sono sicuramente conscio che lo farete senza problemi, assolutamente. Vi ringrazio. Hai qualche altra data, Fabio, da citare oltre questa del 4? Allora, sì, poi saremo all'Opening Summer, un concerto in spiaggia che facciamo ogni anno qui in casa nostra al Malibu Beach Club. Con un palco in spiaggia. Abbiamo dove praticamente? A Giulianova Lido. Ah, quindi voi siete abruzzesi là? Sì, certo. Siamo in casa. Abbiamo altre date, dei festival, vari festival a Silvi in agosto, poi ci sono altre date comunque sparse che stanno uscendo anche adesso. Comunque parliamo sempre di date sul litorale, perché d'estate è veramente fantastico secondo me suonare sul litorale, in spiaggia, comunque organizzazioni di concerti comunque estivi, diciamo. Certo, vuoi citare anche il tuo sito, il sito della band? Allora, il sito della band è www.clepsidraband.it e poi abbiamo il MySpace, che è www.myspace.com/clepsidraband. Comunque, scrivendo Clepsidra su Google appare tutto in prima pagina. Se vogliamo acquistare il nuovo disco? Acquistare il nuovo disco è possibile acquistarlo sia sul nostro sito, nella sezione discografi, certo, sia sul sito della Godown Records e comunque nei rivenditori, nei negozi distributori d'audio globalmente. Certo, e anche i precedenti si possono acquistare, chiaramente. Sì, i precedenti si possono acquistare ovunque, anche comunque nel sito della MT Records. Certo. Sono attualmente in catalogo. Perfetto, questo è molto positivo. È tornato Fabio, è arrivato? Danilo, un problema con l'auto. Aspettiamo ancora qualche minuto, parliamo con te, non abbiamo nessun problema. Sì, no, assolutamente. Problema. Quindi hai detto un anno di non difficoltà, di lavoro per fare un disco che non ha pecche praticamente, un disco perfetto nel senso positivo del termine, cioè un disco volutamente portato avanti in questa maniera. È stata una produzione notevole per i nostri budget, forse la più costosa. Ah, ho capito. Sì, c'è stato un lavoro monetario non indifferente, anche perché poi abbiamo fatto il singolo, comunque abbiamo fatto uscire il video, quindi l'agglomerato della produzione è stata più alta del solito. Speriamo che insomma col tempo tornino i risultati. L'album sta andando bene, però è importante questo. Chiaramente speriamo che un giorno riusciamo a guadagnarci su qualcosa. Ci sia un ritorno, ma sicuramente ci sarà un ritorno. Ma è anche importante avere la gente ai concerti, quello è importante, secondo me, fondamentale. Sì, sì, sì, la gente. Il problema degli ultimi anni dei concerti che abbiamo dato è che facciamo concerti sold out e la data dopo può essere ci sono quattro gatti. È un problema che ho riscontrato anche con Amaury, con gli Alambatori, un po' con tutti i gruppi. Perché secondo me si segue il locale, non più la band. Ah, ho capito. Cioè, c'è il locale, capito, quello lì che va, allora la gente comunque indistintamente va a vedere qualsiasi serata c'è. Però se c'è lo stesso gruppo da un'altra parte, non è il locale, comunque non è la moda, esatto. Non è seguito. Non ha il nome e quindi provoca un decremento degli spettatori. Alti e bassi, in continuazione alti e bassi. Purtroppo capita. Però bisogna sempre, come si dice, andare avanti. No, ma tanto noi di filosofia, pure davanti a due persone o a mille suoniamo comunque sembra al massimo, non c'è problema. Cioè, suonare davanti alla gente è la cosa più bella che esista. C'è poco chiaramente da... poi se c'è un bel pubblico che comunque lì e vedi che è bello preso è un'altra storia. Ma cioè, sicuramente quello di Cittadella sarà un bel pubblico, cosa dice Agostino? Beh, lì, quella è una zona molto famosa per quanto riguarda i concerti live, ci sono spessissimo, sì, fra Cittadella e Piazzola sono due paesi vicini abbastanza, che fanno spessissimo live e anche di spessore, di grandi... Lo stesso Vannuccio sta organizzando una cosa molto bella, molto grande, quindi... Sì, no, ma mi disse Vannuccio addirittura che comunque organizzano veramente tantissimi eventi nella sola città di Cittadella. Beh, se non l'hai mai vista ti piacerà, perché è una caratteristica... No, Cittadella ci siamo stati con Vannuccio e Nino anni fa, però suonarci sarà ancora più bello. Certo. Ma sono tutte rocchettari a Cittadella, buono. Quindi è una garanzia assoluta. È una garanzia. A proposito di garanzia, io adesso faccio sentire un altro pezzo, la traccia numero 10, che è molto bella, molto evocativa, molto sognante. Ce la presenti, Fabio? Dai. Allora, questa qui è, parliamo di un Clepsidra feat. Amaury Cambuzzà, questo è un brano che abbiamo fatto completamente in due. Ho capito. Quindi tutte le parti di controcanto, ci sono strumenti particolari, arrangiamenti, chitarre, sono tutte comunque arrangiamenti fatti da Amaury. Forse è uno dei brani dove ha partecipato di più. Quindi ha dato il contributo massimo, secondo me. Ha dato il contributo massimo. È un omaggio al Piccolo Principe di Saint-Antoine d'Exupéry. Certo. Non so se l'ho detto bene perché... No, hai detto benissimo, hai detto benissimo. È un omaggio a un libro a me caro, quindi l'ho voluto un po' rivisitare sotto la chiave. Alla fine il testo non varia troppo dal testo originale, dal libro per i bambini, però gli ho voluto fare una rivisitazione in chiave diversa, sotto un altro punto di vista. Ok, lo sentiamo assieme allora. Sì. From the heart. Lura, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Caro Fabio, ci sei? Sì, ci sono. È arrivato Danilo? Purtroppo ancora no. Ah, vabbè. Dico, io pensando a questo pezzo ho due considerazioni da fare. Suonando nella notte cittadellese avrà un grande successo, secondo me, perché è una cavalcata lenta e poi si esplode alla Hendrix, Fabio, cosa dici? Potrebbe avere degli ottimi risvolti, io dico sicuramente. È un bel pezzo, questo è il pezzo, non dico il pezzo più psichedelico dell'album, ma quasi quasi ci siamo. Sì, ha comunque tre livelli di strutture diversi, comunque ha un tipo di costruzione diverso anche come arrangiamento, quindi senza ombra di dubbio dal vivo un altro, diciamo, un impatto scenico non da poco suggestivo, comunque molto pregnante. Ti devo chiedere una cosa, Fabio. Dal vivo siete voi tre chiaramente, ma avete qualche supporto, qualcuno che vi dà qualche ospite nel live, oppure siete solo voi tre? Allora, le ospitate ogni tanto le facciamo, invitiamo vecchi amici comunque che sono tendenzialmente all'Hammond, all'organo. Però abbiamo fatto sì che comunque i brani, anche comunque con le sovrincisioni dell'album in studio, dal vivo rendono comunque anche in trio, soprattutto in trio. No, comunque siamo in trio bello secco, power trio. Il discorso del trio bello secco nel senso di rumore, in senso positivo, ne fate parecchio rumore, musicalmente parlando, Ci diamo da fare tutti e tre, chiaramente anche il basso fa un tipo di lavoro solista, quindi è tutto un incastro, anche nei soli è tutto un incastro, perché per un arrangiamento di basso che copra una ritmica, certo, non è facile. Però se ci sono riusciti i Cream, speriamo che... ritornando al vecchio amore nostro che abbiamo assieme qui, i Cream, ragazzi, sì. Basso, batteria, chitarra, c'è poco da fare. Più rumore di quelli, anche se avevano i pezzi. White Room è un pezzo meraviglioso, non era violento, era una cavalcata bellissima, Britpop, possiamo chiamarla così, non so. Dell'epoca. Standard Britpop dell'epoca. Esatto, esattamente. Sì. Io concluderei con un pezzo che trovo molto bello. La critica l'ha avvicinato a William Grant Conspiracy. Non so se sei d'accordo. Questo Time Away. Non conosco questo gruppo. Ah, non lo conosci? Non conosco questo gruppo, peccato. Sì, ho letto nella recensione, sono sincero, non lo conosco. Il recensore, secondo me, ha azzeccato, è un bel gruppo, un gruppo molto interessante, con delle sonorità che possono essere anche americane, decisamente, ma un americano a loro immagine, cioè molto allargato, molto molto ben fatto e con grande ispirazione. Cantante, anche musicalmente, è molto bravo e anche dal punto di vista fisico è un grosso personaggio. Però è un grande album, un grande gruppo questo qua. Comunque a più presto comunque ascolterò sicuramente. Prova a sentirlo, che sicuramente ti farà piacere. In ogni caso il pezzo è molto bello, adesso lo sentiamo, si chiama There's Still Time Away, che chiude l'album e lo chiude molto bene a mio parere, Fabio. Lo chiude con un carrion che fa riflettere. Esattamente, lo sentiamo adesso allora. Fairness. And we're going around the world when I still gonna stop for a moment. I want to get tough. I'm a so dad, tell me why. Don't you come back home tonight? I'm looking for a place to see the watch, the sun on my face without getting blind. A brief fails now to sell. Because his mercy's there, and that's why he's under. When the first melts away, I'm looking for a place to see the watch, the sun on. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Fabio, è fino all'ultima goccia, come è la tradizione di Blu Radio Sera. Sì. Fino all'ultimo secondo il Carillon terminava questo pezzo. Abbiamo finito questa cavalcata, questa oretta assieme a te. Mi dispiace che Danilo non si è più arrivato, il traffico. Beh, ci avrà sentito, cioè, riascolterà con il podcast che il nostro direttore artistico poi metterà in rete fra qualche giorno, quindi potrete riascoltare la trasmissione. Non so cosa dirti, io sono molto contento di aver sentito questo disco, sono stato molto soddisfatto. Adesso verrete a suonare a Cittadella fra qualche giorno. Io spero, fra qualche mese, quando sarà, di venirlo a sentire qua dal vivo da noi. Questo è un ottimo invito, perché no? Quando vorrete, avete a disposizione il tempo, venite qua e suonate dal vivo i pezzi, che sono cose live. Qui facciamo noi un live acustico, ma live di una radio sembra una cosa molto molto bella, secondo me. No, molto molto bella sicuramente, perché no? Anzi, ti ringrazio. Grazie a te. Ricordiamo allora l'album, si chiama Marmalade Sky, è appena uscito, i Clepsydra, Fabio, Danilo e Mattia, che fanno il trio della band. Noi vi concludiamo, grazie anche ad Agostino, è stato in regia, concludiamo con un pezzo che potrai scegliere a te, a tuo piacimento, una traccia, e concludiamo così. Allora, concludiamo con l'omaggio che ho fatto a Jimi Hendrix. Io lo volevo mettere su, ma sapevo che lo citavi te, quindi non l'ho stabilito. Perfetto, Jimmy plays my guitar. Grazie a Fabio, grazie a Capsidra, ci sentiamo e tutti quanti l'appuntamento quindi per il giorno 4 giugno, sabato alle ore 21 a Cittadella per il concerto di Capsidra. Arrivederci, un abbraccio. Fabio, 30 secondi, ci dai ancora una volta i tuoi link per contattarmi? Allora, www.clepsidraband.it il sito e www.myspace.com/clepsidraband il MySpace del gruppo. Anche per il disco? Anche per il disco, sì. E quindi basta che vi contattino e... Anche tramite un'email, tramite pagamento PostePay, okay. in tutto il mondo. Ok. Alla prossima. Ciao allora. Fabio, alla prossima, grazie. Arrivederci, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera.